Beh, consideri che il territorio della regione Emilia-Romagna è costituito per circa metà da zone montane, collinarie e l'altra restante metà da pianure, quindi per quanto riguarda le zone pedemontane dell'Appennino, naturalmente i pericoli più frequenti sono quelli relativi alle frane, mentre in pianura o piana alluvionale, come si dice in gergo tecnico, appunto sono le alluvioni. Sostanzialmente tutte le province della regione sono soggette a questi rischi, naturalmente per la porzione collinare riguardo le frane, per la porzione delle pianure riguardo appunto alle alluvioni. Nello specifico però, diciamo, in Emilia Romagna è stata molto più colpita la Romagna dell'Emilia. Esatto, gli ultimi eventi di questi giorni, ecco, hanno colpito soprattutto la Romagna, le province di Ravenna, Bologna, Forlì Cesena, anche Rimini e Ferrara, e naturalmente lì abbiamo una zona molto critica, anche perché è lì dove i fiumi arrivano al mare, quindi questo naturalmente ha generato tutti i danni che conosciamo. Quali sono le cause della situazione attuale, sia da un punto di vista climatico che da un punto di vista territoriale, diciamo? Guardi, intanto l'Italia, come si dice spesso, è un territorio geologicamente molto giovane e quindi molto fragile. Le cause principali sono dovute naturalmente alle precipitazioni intense. La precipitazione generalmente è il principale fattore innesco, naturalmente, sia di frane che di alluvioni. Oltre a questi fattori c'è sicuramente un intervento più direttamente riconducibile alle attività umane. Mi riferisco per esempio al consumo del suolo. Consideri che in Italia negli ultimi, diciamo, circa 70 anni le superfici urbanizzate sono passate dal 2,7% al 7% attuale, e quindi questo incremento di aree urbanizzate naturalmente fa sì che da un lato aumentino gli elementi esposti a rischio, per esempio beni e persone che sono presenti in aree soggette a pericolosità sia per frane che per alluvioni, ma nel contempo, diciamo, questo ha provocato anche l'abbandono delle aree montane, delle aree rurali, e questo ha determinato, come dire, un mancato presidio del territorio, una mancata manutenzione del territorio. Quali sarebbero le soluzioni che potrebbero salvare, diciamo, il territorio, prevenire situazioni come quella attuale? Esistono diverse soluzioni. Sicuramente noi spesso ci riferiamo a misure di mitigazione strutturale, per esempio pianificare correttamente il territorio, per esempio ubicare in aree sicure le aree di nuovo, appunto, urbanizzazione, utilizzare vincoli, ma nello stesso tempo anche realizzare interventi, appunto, strutturali di mitigazione del rischio, per esempio il consolidamento dei versanti, le arginature per quanto riguarda le alluvioni e così via. Esistono poi però delle misure che si chiamano non strutturali, e cioè per esempio realizzare delle reti di monitoraggio strumentale, piazzare dei sensori lungo il territorio per avere una diretta conoscenza di quello che succede, e allo stesso tempo comunicare e diffondere le informazioni. E a questo proposito mi faccia dire che l'ISPRA ha realizzato una piattaforma nazionale che si chiama Idrogeo, e si può raggiungere idrogeo.ispraambiente.it, e questa piattaforma consente di visualizzare anche da smartphone sia dati che mappe sul dissesto idrogeologico, quindi ognuno da casa può conoscere il contesto in cui vive o lavora, e questo credo possa contribuire all'aumento della consapevolezza delle comunità, ecco.